Buongiorno a tutti quanti, quelli presenti qui fisicamente e quelli presenti virtualmente. E torniamo alla lezione con la Torah. Oggi la lezione è la lezione di Mishnah. Proseguiamo con il trattato di Mishnah di Rosh Hashanah, secondo capitolo, quinta Mishnah. E avete anche qui sulla lezione, potete vedere sul live, potete vedere il testo. Allora, il testo della Mishnah ci parla delle domande che faceva il Bet Din ai testimoni che arrivavano a testimoniare la visione della nuova luna per poter poi eventualmente fissare e santificare il nuovo mese. E abbiamo detto che venivano esaminati questi testimoni. Qui ora la Mishnah darà degli esempi. Fa degli esempi di domande specifiche che si facevano agli testimoni, agli edim. La Mishnah dice così: Keitzad bodkin et ha'edim. Come, in che maniera si esaminavano o si esaminano i testimoni? La Mishnah dice: la prima cosa, quali sono i primi che vengono esaminati? Perché abbiamo studiato già, abbiamo visto che molte testimonianze venivano raccolte, molti testimoni venivano. E quindi, come la priorità, chi è che viene esaminato, portato dentro al Bet Din ed esaminato per prima? Allora la Mishnah dice, prima di tutto, Zug, la coppia, quindi la coppia di testimoni, devono essere sempre almeno due, potrebbero essere di più, però come base una coppia. Una coppia, la prima coppia, Sheba Rishon, la coppia che si è presentata per prima, viene esaminata per prima. Zu Sheba Rishon, Bodkin Oto Rishon. Appunto, la prima coppia che arriva viene esaminata per prima. Ora, come per tutte le testimonianze davanti al Beit Din, quando vengono esaminati i testimoni per poter verificare la loro validità, e la validità della loro testimonianza, non vengono esaminati entrambi insieme, vengono esaminati prima uno per uno, in modo tale che poi il Beit Din può paragonare le due testimonianze che vengono appunto trasmesse originalmente in maniera indipendente l'una dall'altra. Questo stesso forma un altro modo di verificare la validità, chiaramente. Quindi, tra i due, quale sarà il primo che viene invitato ad entrare e dare la propria testimonianza? La Mishnah ce lo dice: Umachnissin et Hagadol Shebahen. Innanzitutto si fa entrare il più grande tra di loro. Quindi andiamo secondo l'età, seguiamo l'età dei due e viene invitato il più grande. E iniziano a fargli delle domande. La prima domanda che gli si fa è: Veomrin lo, e gli si dice, Emor, di a noi, Keitzad raita et alevana, in che maniera hai visto la luna? Cosa vuol dire in che maniera, come hai visto la luna? I Chachamim, i Dayanim, i giudici, spiegano la domanda. Lifnei hachama o leachar hachama? Dinanzi, davanti al sole o dietro al sole? Cosa significa davanti al sole o dietro al sole? Allora ci sono diverse spiegazioni. La Gemara spiega, e viene riportato nei commentatori della Mishnah, che è molto semplice. Se noi parliamo della parte mancante della luna, per così dire, la parte che non si vede, ok? La parte coperta, e abbiamo la parte scoperta. La parte coperta è rivolta verso il sole. O al contrario, la parte scoperta è rivolta verso il sole. È chiaro, come la Mishnah dirà più avanti, che non è possibile che la parte coperta sia rivolta verso il sole, perché se così fosse sarebbe quella la parte scoperta e non la parte coperta. Esattamente, quindi questa prima domanda è estremamente banale e come prima cosa per capire se stiamo parlando di persone che con questa domanda si potrebbe subito bocciare la testimonianza, ovviamente, se la risposta fosse strana. Quindi questa è la prima domanda. Seconda domanda, l'itzonà o l'idromà? La Luna è rivolta a nord o a sud rispetto al Sole? Ok, questa già è una domanda che può essere in un modo o un altro a secondo del momento dell'anno e a secondo del momento del giorno in cui viene vista la Luna. E anche qui ci può essere una cosa che sia possibile o non sia possibile. Di nuovo diventa un modo per poter sapere se bocciare la testimonianza. Terza domanda, Kama Haya Gavoa, quanto era alta la Luna? Perché in diversi momenti la Luna sembra più alta nel cielo o più bassa nel cielo. C'è una grande, una alta Esatto, beh, sull'orizzonte, intende. sì, alta o bassa sull'orizzonte. No, Luna calante o non calante non è qui il discorso perché deve essere la Luna Nuova. nuova. Chiaramente, ovviamente se dicono la luna calante, allora non c'è testimonianza, perché può essere in questo momento luna calante. E poi la domanda, Ul'ain Haya Nota, verso quale direzione era rivolta? E ultima domanda che viene citata qui, Vekama Haya Rahav. Quando dice verso che direzione era rivolta, inteso la, diciamo, le punte. C'era la C o la D praticamente. Sì, C o D. Ok, sì, possiamo dire così. Se il morso della No, piccola se da la destra C fin. è rivolta verso sud o verso nord, questo intendi? Ok, perché D? Perché la C al contrario La C al contrario sembra sembra una una D. D praticamente perché c'è il. Chiusa Ah, dall'altra. perché è Okay. come se fosse chiusa dalla parte. Ok, molto bene. Quindi se questo è rivolto verso nord o sud. E l'ultima cosa, Vekama Haya Rahave, quanto era larga? Cosa vuol dire quanto era larga? Grande. Lo spicchio che si vede. Non so, no, non credo lo spicchio, credo più quanto era grande, perché la Luna può essere vista in maniera più o Ah, meno sì, grande, uscita e no? Sì, lo chiusura. spicchio, appunto, Sì, quello che si vede sì. della Luna, sì. Quanto è largo? Come? Questo è più vicino o più lontano? E l'altra domanda, quanto era alta? Questa è la domanda, più vicino o più lontano. Ora la Mishnah dice, è chiaro che se, e fa l'esempio della prima domanda, ma ovviamente la cosa che adesso diremo si applica a tutte le domande, se dovesse rispondere Imamar, se questo testimone che viene esaminato dovesse dire Lifnei Hachama, era dinanzi al sole, cioè che la parte coperta è rivolta verso il sole, Moriva allora il lo sole. Amar Clume, come se non avesse detto niente, cioè la sua testimonianza non è assolutamente valida. E la stessa cosa per le altre domande, qualora dovesse rispondere in una maniera che non ha senso, viene bocciata la testimonianza. Scusa, non è falsa testimonianza, pertanto, è solo una testimonianza invalida. Esatto. È mancante rispetto verso il tribunale, se uno si presenta che Sì, però evidentemente non. ma in questo caso non è che viene messo a processo per falsa No, testimonianza, può darsi che ha sbagliato, può sì. darsi che. Una falsa testimonianza non sempre è presa come una testimonianza da condannare. Condannare. Particolare, anche se così fosse, abbiamo visto che ci sono molte agevolazioni per far arrivare più testimoni per la testimonianza della Luna, come abbiamo visto nelle scorse lezioni. E la Mishnah dice poi, se la testimonianza del primo sembrava valida, allora dopo di esaminare il primo, dopodiché, si faceva entrare nel Bedin il secondo testimone della prima coppia, e lo si esaminava adesso a lui. Se anche lui risponde bene, non solamente risponde bene, ma la sua testimonianza è conforme con la testimonianza del primo, se le loro due testimonianze sono compatibili l'una con l'altra, allora in quella situazione cosa succede? La loro testimonianza è valida, viene accettata dal Bet Din e il Bet Din cosa fa? Santifica il mese. Se questo fosse il primo o il secondo gruppo di Edim, e fuori ci sono altri 10-20 gruppi di Edim che aspettano, cosa si dice? Andate tutti a casa? Se queste informazioni bastano del primo? Sì, questo diciamo. Se le informazioni bastano per santificare il mese, basta. Fuori ci sono molti altri testimoni. Viene fatto un musaf aggiuntivo, vero Scott? Chiaro che viene fatto un musaf perché è Rosh Chodesh. Però la domanda, qui il soggetto della Mishnah sono i testimoni. Gli altri testimoni, no, non dimentichiamo che fuori ci sono altre 100 persone che vogliono testimoniare. Prendiamoli in considerazione, dice la Mishnah. Come li prendiamo in considerazione? Non abbiamo più bisogno di loro. Il mese è già stato santificato. Cosa dobbiamo fare? Dice la Mishnah, guardiamo il testo. Ushear kolasgot, riguardante tutti gli altri, tutte le altre coppie di testimoni, Shoalim Otan Rasheidvarim, gli si fa entrare e si chiedono loro delle domande principali, generali, anche se non c'è più bisogno. E la Mishnah dice, Lo Shayut Srichim Lahem, non che abbiamo bisogno della loro testimonianza, ma perché? Allora, Ela bensì, Kedei shelo yetzu pache nefesh, perché non se ne andassero afflitti. Noi abbiamo fatto tutta questa strada e siamo giunti qui a Yerushalayim, o dove è l'Edin HaGadol, per testimoniare la visione della nuova luna. E qui ci dicono andate a casa, non servite più. Cosa succede? La prossima volta non vengono più. Invece vengono portati, gli viene fatto kavod, entrare nel Beit Din, parlare con il Sinedrio, rispondere a delle domande anche se generiche, generali, bishvil sheyeuri gilim lavo, in maniera tale che siano sempre abituati a venire, che prendessero l'abitudine di continuare a venire davanti al Beit Din, a testimoniare quando vedono la nuova luna, scusate, perché? Perché può darsi che un giorno servirà la loro testimonianza. Non demotivarli anche. E per non demotivarli, esattamente. Ora, la Mishnah dice, subito la Mishnah successiva, continua a descrivere cosa accade nel momento in cui viene accettata la testimonianza, ed ora, appunto, Leone, passiamo dal soggetto testimoni al soggetto santificazione del mese. Quindi, abbiamo accettato la testimonianza e arriviamo al momento in cui si santifica. Come si dichiara ufficialmente la santificazione Kiddush HaChodesh? La Mishnah ci dice, guardiamo il testo. Rosh Beit Din, il capo del Beit Din, quindi il più importante membro del Sanedrin, del Sinedrio, Omer dichiara Mekudash, il mese è santificato. Dichiara il mese è consacrato. E tutti coloro che si trovano lì, Vechol Ha'am, tutto il popolo, Onin Acharav, rispondono dopo la sua parola che ha detto Mekudash, Mekudash, doppiamente la stessa formula, è consacrato il mese. Quindi in tutto viene dichiarato tre volte, una volta da Rosh Beit Din e due volte come risposta di tutti quelli che si trovano lì, del popolo. E la Gemara trae dai versetti le allusioni a perché ci si comporta in questa maniera. È alluso anche nella Torah, nei versetti che parlano del Kiddush HaChodesh. Questo dice la Mishnah ora, Ben shenira bismano, ben shelonira bismano mekacinoto. Ora la Mishnah affronta in realtà un altro aspetto del Kiddush HaChodesh. Che la luna sia vista nel suo momento o non nel suo momento. Cosa significa nel suo momento o non nel suo momento? A suo tempo significa il trentesimo giorno. Quindi in questo giorno stesso conclude il mese precedente, inizia il mese successivo, che è praticamente come se fosse stata vista la luna nel momento della sua nascita, più o meno come concetto. E allora lì ha senso chiaramente accogliere la testimonianza, rendere consacrato, santificato il mese, in base alla testimonianza che è stata accolta nel momento della nascita della luna. cosa succede se in tutta questa giornata non arrivano testimoni, quindi non è stata visualizzata la Luna nel suo momento, ed eventualmente fosse stata sì visualizzata, non nel suo momento, significa nel 31esimo giorno? Ha senso accogliere quella testimonianza e dichiarare Mekudash consacrato il mese in base alla testimonianza, oppure è automaticamente consacrato il mese, visto che comunque è chiaro che è passato il tempo della nascita della nuova luna? Il mese c'è stato. La nascita, il Chodesh, c'è stato. Allora in teoria dovrebbe essere Mekudash quasi automaticamente. La Mishnah inizialmente qui a questo punto dice no, che sia stato visto nel suo momento o non nel suo momento, quindi un po' successivamente, 31esimo giorno, comunque viene consacrato, Mekacino To, cioè è dal Beddin, lo deve rendere consacrato con la dichiarazione ufficiale. Anche se tardi. No? Anche se tardi. Anche perché poi parte il conteggio per il mese successivo, parte da quello. Sì, esatto, però... Però sarebbe spazzato. Partirebbe comunque, la domanda è se parte in automatico o se deve essere consacrato per forza. Bettin. Ora vediamo la prossima opinione nella Mishnah. Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok Omer. Rabbi Elazar, figlio di Rabbi Tzadok, dice no. In loni Rabbi Zmano, se la luna non fosse stata vista, se la nascita della luna non fosse stata testimoniata nel suo momento, allora en mekacinoto, non lo si fa consacrare ufficialmente nel Bedin, poiché shekvar kideshuhu shamaim, perché è già stato consacrato in cielo. Cioè, come se dall'alto avessero già consacrato questo mese, in quanto se la luna non è stata vista nel 30esimo giorno, allora è chiaro che il mese deve essere per forza di 30 giorni, non di 29. E domani è Rosh Chodesh, è come se da cielo hanno dichiarato automaticamente che così è stato consacrato questo mese. Quindi automaticamente il giorno successivo diventa Rosh Chodesh, è come se fosse stato consacrato e annunciato dal Beit Din. Di conseguenza, l'Alaha segue questa opinione di Rabbi Elazar ben Rabbi Tzadok. Cioè, se cala la notte e non arrivano testimoni durante il 30esimo giorno, automaticamente viene annunciato il nuovo mese domani, senza passare per tutta la prassi della consacrazione ufficiale, come abbiamo visto prima. Anche se la mitzvah, no? La prima mitzvah, era guardate di voi il tempo, cioè sulla terra. Oh, bravo, allora la Gemara parla di questa cosa. In teoria dovremmo essere noi a dare a consacrare il nuovo mese. E la Gemara dice in questo caso, visto che tutto il Beddin e tutto il popolo ha visto consacrare il mese, consacrare diciamo dal cielo, quando già il 31esimo, allora diventa così accettato automaticamente. È chiaro che il Beddin deve annunciare il nuovo mese, perché sì, è dato in mano loro, però tutta la cosa di accettare i testimoni e esaminarli, come abbiamo detto, la Mishnah inizialmente diceva che bisogna consacrare secondo tutta la prassi, anche qualora non fosse stato visto nel suo momento, no, non è così. Si accetta che è Rosh Chodesh, va annunciato dal Beit Din, però è una cosa che avviene, diciamo che è come se è imposto che Rosh Chodesh sarà domani, non può essere diversamente. Quindi tutta la prassi prima non c'è. Ok? Benissimo. Ora, nella prossima Mishnah, vedremo delle testimonianze interessanti riguardo a diversi Chachamim e diverse situazioni specifiche che sono accadute durante la testimonianza per il nuovo mese. Allora, nella prossima lezione, continueremo sempre qui. Buona giornata a tutti quanti. Senti.